GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Il Torino rallenta il passo del Milan e allora l'Inter, che sabato ha battuto la Juventus, porta 3 punti di vantaggio in classifica sui rossoneri. Nel posticipo della 13esima finisce 2-2 tra Torino e Milan. Granata in vantaggio con Stellone, poi rossoneri in rete con Pato e Ronaldinho. Alla fine decide un rigore di Rosina dopo un fallo di mano di Calazze. Ancelotti a Sky Sport. In questo momento stiamo giocando un buon calcio, riusciamo a giocarlo sfruttando le nostre caratteristiche, molta qualità nello stretto. Quello che dobbiamo fare meglio è quando le partite si giocano bene bisogna vincerle. Frena il Napoli, agguantato allo scadere sul 2-2 dal Cagliari al San Paolo. Il tecnico partenopeo Reia. Questi sono sicuramente peccati di gioventù. Noi delle volte siamo superficiali, con un po' più di attenzione chiaramente si poteva sicuramente portare a casa i 3 punti. Purtroppo noi qualche errore lo commettiamo, è successo a Milano un minuto alla fine, è successo anche a Bergamo con l'Atalanta 3 minuti alla fine. Ne parleremo e vedremo di trovare i correttivi. Continua invece a risalire la Roma, 3-0 dei giallorossi a Lecce. Totti di suo ci mette la classe e un bel gol con un tocco a cucchiaio. Stiamo tornando sui nostri livelli, siamo tornati sulla continuità, la continuità della squadra, e penso che questo sia la cosa più importante. L'importante è dare spettacolo e portare a casa 3 punti, poi se c'è il cucchiaio o compagnia bella, penso che fa bene per tutti, per me, per la squadra e per la gente che vede la squadra. E 3-0 anche per la Sampdoria sul Catania, doppietta di Cassano che l'allenatore blucerchiato Mazzarri rivedrebbe bene in nazionale. Il CT è esperto e bravo, ha 1000 osservatori, quando gioca come oggi, se vuole convocarlo lo viene a vedere e se ne rende conto da sé. Noi bisogna fare l'allenatore del nostro club e fare le scelte per noi, e l'ho sempre fatto giocare da quando è arrivato e quello che penso lo sapete tutti, insomma. Da parte sua, il talento barese già guarda Sudafrica 2010, con un pronostico a sorpresa, come confessato ieri sera a Che Tempo Che Fa. Capello secondo me arriva tra le 4 al prossimo mondiale, perché io gli ho detto che era fortunato, gli ho detto di tutti i colori, però adesso che non ce l'ho, gli posso dire che gli voglio veramente bene e arriverà fra le 4 al mondiale, ne sono certo. In coda successi per Regina 3-1 all'Atalanta e Siena 2-0 a Verona col Chievo. Finiscono sull'1-1 Bologna-Palermo e Lazio-Genoa. Nel basket Siena batte Montegranaro e continua la fuga in testa alla A1 a punteggio pieno. Pesaro batte Roma, doppio successo per le bolognesi. Nella 7ª giornata vincono anche Rieti, Teramo e Caserta. Per la pallavolo nella 9ª di A1 maschile Cuneo supera la capolista Trento al tie break. In testa sale allora Macerata che batte 3-0 Forlì. Quella che sentite è la voce del nuovo eroe dello sport e del tennis spagnolo. È Fernando Verdasco che, battendo a Casuso in 5-7, ha conquistato il punto decisivo nella finale di Coppa Davis a Mar de la Plata contro l'Argentina. Per gli iberici, privi dell'infortunato Nadal numero 1 al mondo, è la 3ª Coppa Davis vinta nella storia. Chiudiamo con l'atletica, l'azzurra Anna Incerti ha vinto la maratona femminile di Milano, tra gli uomini tripletta keniana con Kirong che ha preceduto Chelimo e Maina. Vi ricordo alle 14 l'appuntamento con A Tempo di Sport, ancora una buona giornata da Dario Ricci.